Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, oggi è lunedì e si spegne, lo abbiamo fatto più volte, abbiamo cercato di capire perché farlo, come farlo, quando farlo e oggi ci riproviamo e quindi oggi cercheremo di farla spegnere a chi ancora la tiene accesa e applaudiremo la costanza di chi si è trasformato in ex, non ex qualsiasi naturalmente, ma ex fumatore, ed è quello che vi vogliamo far spegnere oggi, è la vostra sigaretta, che oggi potrebbe diventare anche la vostra ultima sigaretta. E se questa è l'ultima sigaretta, così come la canta Bon Jovi, io vi chiedo di sfidarvi in diretta oggi a Radio 24 a essere benessere, in modo da far sì che la giornata di oggi sia per voi indimenticabile, quella proprio da segnare un po' sull'agenda. C'è qualcuno di voi, ve lo chiedo con il cuore, che vuole candidarsi subito in diretta per così fumarsi l'ultima sigaretta, quella proprio con cui decide di spegnere, no? E di dire basta, in diretta con noi all'800 24 00 24, raccontandoci anche, no, come si assapora questa boccata che scende. Allora ci chiami subito perché lo manderemo in diretta, e invece per chi ci vuole provare, oltre ai nostri ospiti, ho anche in serbo una magnifica sorpresa. A 5 di voi che ci chiameranno per raccontarci la loro esperienza di ex fumatori o di fumatori che stanno cercando di diventare ex, abbiamo pensato di far ricevere a casa un kit. Perché voi sapete che c'è chi prova con la forza di volontà, con la psicologia, c'è chi invece ha bisogno di un sostegno più medico, più clinico. Allora noi abbiamo pensato, diamoglieli tutte e due, perché no? Allora, nel kit di oggi abbiamo pensato di confezionarvi con due libri, che uno è il celeberrimo Anche tu puoi smettere di fumare se sai come farlo, di Allen Carr, quindi per l'approccio più psico, e Spegnila invece di Donatella Barus, bravissima giornalista, e Roberto Boffi, che è il responsabile del centro antifumo dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, nostro vecchio amico. Buongiorno dottor Boffi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Appunto, Spegnila, che ha un approccio, se vogliamo, più medico, più clinico, quello che si usa nei centri antifumo, due libri, quindi intervenite subito 800 24 00 24, ma oggi abbiamo anche il piacere di avere qui con noi in studio la dottoressa Milly Moratti. Buongiorno, buongiorno dottoressa, buongiorno. Benvenuta, è presidente di Chiama Milano, è un'associazione che abbiamo visto anche in prima linea nella giornata mondiale contro il tabacco all'Istituto Nazionale dei Tumori, perché si è creata una vera e propria alleanza. Dottoressa Moratti, sì, ci racconti. Sì, Chiama Milano è nata proprio per dare diritto di accesso all'informazione ai cittadini, e primariamente perché ci siamo accorti che i dati dell'inquinamento non erano quelli distribuiti ufficialmente e volevamo comunicarlo in diretta. Da quello è nata un'alleanza con le nostre centraline che rilevano l'inquinamento, e soprattutto con quella ambulante che va in giro con un progetto nelle scuole. È nata l'alleanza con l'Istituto dei Tumori, con il Museo di Storia Naturale, con l'Osservatorio Meteorologico, per fare proprio delle vere e proprie campagne di informazione, sensibilizzazione, conoscenza sullo stato dell'aria di Milano. Sì. E naturalmente il discorso dei fumatori è certo. Cosa me ne importa di fumare se già respiro così male a Milano? Non è vero, è proprio arrivare con un sistema ancora più depresso con l'aria di Milano. Proprio, è quello proprio che dobbiamo evitare di fare. Intanto 800 24 00 24, dottor Boffi, molti dicono, no? Tanto l'aria respiria, chissà che schifezze respiriamo, come diceva la dottoressa Moratti, due sigarette in più che cosa mi possono fare? Beh, questo è uno degli alibi classici dei fumatori che noi cerchiamo di scardinare ogni anno al World Tobacco Day, soprattutto con i più giovani, dimostrando in tempo reale quanto una sigaretta sia capace di battere nel produrre inquinamento anche i motori più potenti come le macchine di grossa cilindrata o le moto. Ne avete fatto di ogni all'istituto. Sì. Ci divertiamo anche un po', però sempre con un valido rigore scientifico, perché sono poi studi che pubblichiamo su riviste internazionali. Certo, non è che lo facciamo per ridere. No, però ci divertiamo anche. Però sono dati clamorosi, perché anche quest'anno forse poi avremo occasione di parlarne, che abbiamo introdotto il problema del fumo passivo all'aperto, no? In particolare negli ambienti affollati come gli stadi di calcio. Abbiamo qui la moglie di un presidente anche fumatore, dati che sono veramente unici al mondo e hanno stupito noi stessi, la capacità che hanno le sigarette di inquinare più di qualunque altro motore o caldaia che dir si voglia. Diciamolo subito allora, che aria si respira? Che aria respira il presidente? È un'aria secondo l'EPA, cioè secondo gli americani, non insana, cioè ci sono dei picchi di concentrazione di polveri sottili, il PM2.5, cioè il cosiddetto particolato respirabile, quello che arriva agli alveoli e in parte va anche nel sangue, 10 volte superiori all'aria che c'era fuori dallo stadio, e i livelli, le concentrazioni di nicotina erano 26 volte superiori, quindi categorie particolarmente suscettibili come gli asmatici, come le donne incinte, come i malati di cuore, come i bambini, devono sapere che andando allo stadio, negli stadi italiani, perché all'estero non è dappertutto così, in Inghilterra ad esempio dal 2007 è vietato fumare negli stadi e nei concerti, sono esposti, si fanno un aerosol per 2-3 ore di polveri sottili che sono dannose. Dottoressa Moratti, vorrei un suo commento, anche perché suo marito ha fatto una promessa che sta rispettando. Sì, sta rispettando. Allo stadio la sta rispettando. La promessa riguardava lo stadio, perché avevamo anche cercato con una mozione in consiglio comunale di proporre che non si fumasse perlomeno in un reparto dello stadio, che poi è una cosa effimera, perché chiaramente l'aria muove, non ha, no? dei confini. Ecco, un po' come la storia di limitare a un'area circoscritta il controllo dell'arrivo delle automobili. Evidentemente l'aria non ha queste dogane che la bloccano. No, la cosa incredibile è l'andamento delle polveri sottili e soprattutto dei concentrati da nicotina, che praticamente fa la cronaca della partita. Cioè, se lei non avesse sentito la cronaca della partita, saprebbe esattamente quando c'era un rigore, quando c'era un calcio. Sì, perché siamo andati a Interlazio, il primo tempo era stato molto combattuto, c'era stato un rigore, un'espulsione, e le concentrazioni polvere sottili hanno seguito l'andamento della partita. Allora, noi adesso andiamo a sentire, l'avevamo sentito qualche mese fa proprio a Essere Benessere, però l'abbiamo pensato di riproporvelo perché ha avuto grande successo. È che cosa c'è dentro una boccata di fumo? Qual è il contenuto di una sigaretta? Andiamo. Di oltre 4.000 sostanze chimiche che si creano nella combustione del tabacco alla temperatura di 800 gradi centigradi, sappiamo che almeno 250 sono nocive, come nicotina e monossido di carbonio. E poi acido cianidrico, usato anche nelle armi chimiche, era il composto base per il famigerato Zyklon B delle camere a gas naziste, ammoniaca, noto disinfettante, toluene, si trova negli inchiostri da stampa e nelle vernici, perossido di idrogeno, acqua ossigenata, e 62 sono cancerogene, la maggior parte è contenuta nel condensato o catrame, come ad esempio il benzopirene, che si trova anche tra i prodotti della combustione di rifiuti indifferenziati, negli scarichi dei motori diesel a nafta e a cherosene, arsenico, un metallo pesante tossico che i personaggi dei gialli di Agatha Christie versavano per lo più nel tè di individui sgraditi. Cadmio, un metallo tossico contenuto nelle batterie, è uno dei motivi per cui vanno smaltite a parte e non gettate tra i rifiuti indifferenziati. Cloruro di vinile, composto organico noto anche come PVC, usato nei manufatti plastici. Polonio 210, sostanza radioattiva. Secondo i ricercatori, chi fuma 20 sigarette al giorno per un anno è come se si sottoponesse a 300 radiografie. Dottor Boffi, dati che ci mettono paura, ma noi andiamo a Bologna. Alessandro, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno ai suoi ascoltatori. Lei è un ex o come si può dire, un fumatore o un ex? Sono un ex, da circa 12 anni sono riuscito a smettere, io fumavo circa 15-16 sigarette, diciamo che con due pacchette facevo 3 giorni. Però alla fine... Come ha smesso, Alessandro? Lei come è riuscito? Sì, dunque, la mia tecnica, insomma, ci ho provato un paio di volte. Ci sono riuscito quando in un periodo estivo c'era molto caldo, uscendo nei weekend si aumenta sempre il numero delle sigarette fumate, e diciamo che in un weekend sono andato in overdose, cioè addirittura alla mattina alle 3, alle 4 toglievo il filtro della sigaretta. E poi è successo che la domenica mi sono messo a lavorare intorno a casa e col caldo, col fastidio, lavorando per tutto il giorno non ho fumato. Allora poi alla sera ho detto proviamo. Alessandro, forse è stato l'esposizione, un'overdose di nicotina che mi ha dato qualche giorno di respiro, più il caldo, più la fatica, più la consapevolezza che si poteva fare. A questo punto ho continuato e non ho mai più ripreso. Alessandro, grazie, anche perché, dottor Boffi, ci sono delle persone che dicono smettere mi fa molta paura, non ce la faccio, non ho le motivazioni, mi piace, ne fumo solo poche, insomma, le sappiamo tutte, no? Però molti dicono se provassi solo per oggi non fumo, che è una tecnica, no, molto collaudata, che si utilizza anche nei gruppi. Oggi oppure per questa ora non fumo, funzionerebbe? Beh sì, è un inizio, è un metodo, non esiste per me un unico metodo valido per tutti. A volte però vivere un po' la giornata, cogliere gli aspetti positivi anche delle piccole vittorie, come possono essere riuscire a ritagliarsi degli spazi e dei tempi pur brevi senza fumo, questo può insegnare qualcosa. In un questionario motivazionale che noi facciamo sempre somministrare ai nostri pazienti, cioè se hai provato a smettere di fumare ci sei riuscito almeno per una settimana, può sembrare poco una settimana, però è già una grossa comunque esperienza che ci arricchisce, e a questa possiamo attingervi per le volte successive. Abbiamo Raffaella, ci chiama da Viterbo, 800 24 0024. Buongiorno Raffaella, benvenuta. Oh Nicoletta, buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, io ho fumato per quasi 40 anni, ora ne ho 59. Sì. Ho smesso per una motivazione, volevo le corde vocali pulite. Sì. Perché per vari motivi. E mi sono fatta aiutare dal servizio sanitario. Sì. Ho assunto un farmaco, viene dato per 3 mesi, io l'ho preso per 1 mese e mezzo perché mi sentivo doppiamente tossica a quel punto. Sì. Però ha funzionato, è un farmaco che non posso nominare, ma è molto noto, lo danno da 2-3 anni. Purtroppo il dottor Boffi dice che si può dire. Il dottor Boffi, lei lo sa qual è. È la vareniclina. È la vareniclina, ne abbiamo parlato tante volte. Raffaella, con lei ha funzionato? Con me ha funzionato, adesso dopo 8 mesi ha funzionato, non ho sofferto, non ho avuto nessun tipo di problema, l'ho interrotto prima dei 3 mesi, però ora ho di nuovo voglia di fumare, sono ingrassata, sono 5 kg, non è drammatico, però io sono sempre stata molto magra. Ho voglia di ricominciare perché non mi riconosco più nel mio aspetto fisico. Ho fatto un po' di ginnastica, un po' di camminate, contenta con la dieta, ma non mi si sblocca il meccanismo perché non ho neanche più 20 anni. E certo, Raffaella, ma questo è... Ne volevo parlare anche con la dottoressa Moratti, perché lei non fuma, però essendo donna e vivendo accanto anche a fumatori, ecco, per noi donne l'idea di riprendere il peso, perché chi smette magari non aggiusta la dieta, non incrementa l'attività fisica, e d'altra parte c'è già talmente tante cose da pensare che poi ingrassa. Ecco, questa è una delle motivazioni che trattiene molte donne a smettere. Una scorciatoia, adesso non mi permetto di dare suggerimenti. Raffaella, tenga duro, le facciamo, io a Raffaella d'ufficio le faccio arrivare. Raffaella ha bisogno anche perché del nostro kit. Raffaella la segniamo subito. Scusi, mi sovrappongo al dottor Boffi e alla dottoressa Moratti, che avevo scelto come arbitri di questa assegnazione, ma Raffaella mi ha proprio toccato. Secondo me va stimolata tutta la fantasia e la curiosità giusta con cui si può affrontare più sanamente la vita e quindi riportare un metabolismo. Può essere un'occasione, insomma, può essere un'occasione non solo per liberarsi da una schiavitù, da qualcosa che è scontato, un gesto rituale, un'intossicazione dal punto di vista proprio chimico sicuramente, ma anche un modo, cioè cogliere l'occasione per cambiare vita, magari cominciare a cucinare in un altro modo, ad operare meno grassi, saper fare cose più fresche. Farsi sostenere dagli amici. Sì, farsi sostenere dagli amici sicuramente, in questo gioioso cambiamento di vita. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura, e come il vento odo stormire tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno, e le morte stagioni, e la presente, e viva, e il suon di lei, così tra questa immensità s'annega il pensier mio, e il naufragar m'è dolce in questo mare. L'avete riconosciuta e a me trema un po' la voce perché in linea con noi abbiamo Giorgio Albertazzi. Buongiorno. Salve, buongiorno, buongiorno. Ma che piacere di averla in linea con noi. Io ho bisogno di lei perché lei è stato un grande fumatore e poi ha deciso di smettere. Io ho letto in un'intervista che lei suggeriva come fare a smettere e consigliava di fumare quanto si vuole, a una condizione: prendere ogni sigaretta tra due dita e dire forte tu mi ucciderai ma ti fumo ugualmente. È vero? Ho letto bene? Sì, sì, questa era una delle cose che suggerivo, ma non so se che effetto può avere, però perché visto che la scritta sui pacchetti non risulta che abbia degli effetti definitivi. Però io pensavo questo perché dovunque sei, pubblico, privato, da solo, dire ad alta voce, che la voce conta, la guardarla e dire tu so che mi uccidi ma ti fumo lo stesso. Però non so se questo è il modo. Io ho smesso, fumavo, non ero un grandissimo fumatore, comunque fumavo più un pacchetto. Quindi un fumatore è normale, un pacchetto forse qualche volta 25, non so. Sì. E ho smesso per la voce, cioè perché per i fiati, il fumare, come diceva Zacconi, non peggiora la voce come timbro, come qualità, però taglia i fiati, certamente. Chi fuma fa le scale, sì, col fiatone, c'è poco da fare. Siccome devo fare Amleto, Romeo, Alisi, insomma i grandi personaggi della storia del teatro, avevo bisogno di cose per avere i fiati lunghi. Come ho smesso? Smesso dalla sera alla mattina. Dunque è un atto di volontà, aspetta, è molto difficile. C'è un mio amico di Napoli, un grandissimo, era un mio amico di Napoli perché non è più adesso, un grandissimo chirurgo, Rocco Doci, uno dei più grandi chirurghi italiani, il quale dice fumava moltissimo, nella mano non gli tremava durante gli interventi operatori, diceva che fa male fumare poco, diceva lui, nel senso che per alcuni il fumo è deleterio, per altri non è così dannoso. Per esempio Anna Proglia fumava. Fuma, però la voce non è diminuita, capito? Non è peggiorata. È difficile perché il fumo si attacca agli atti quotidiani. C'è una gestualità, ne parlavamo proprio con Milli Moratti, della gestualità di quando uno, lei anticipa già. Il guardare, la bellezza, insomma la bellezza, chiamiamola bellezza del fumo, del gesto, poi il caffè, poi dopo il caffè, poi prima di colazione, poi dopo mangiato. È un rito. Tra l'altro accompagna. Abbellisce gli atti, le azioni, no? Sembra per noi, viceversa non è così, sai che questo è un inganno, come tutti i vizi d'altra parte, tutto ciò che le cose si ripetono e diventano un rituale necessario, che danno respiro al vivere, insomma, invece bisognerebbe smettere, visto che fa male, non so. Noi accogliamo il suo così appello, proviamo a smettere, c'è chi riesce a farlo dall'oggi al domani, chi si fa aiutare. Guardate, dunque, succede questo fatto smettendo, non è così semplice, nel senso che ci vuole tempo, dunque, perché c'è un'intossicazione organica, al di là del fatto psicologico della dipendenza. Cioè, ti devi disintossicare proprio, quindi se tu smetti di fumare, l'entusiasmo dell'atto volontario ti fa magari durare un mese e mezzo, al secondo, terzo mese c'è la prima grande crisi che va superata, poi c'è una crisi che viene verso l'ottavo mese, nove mesi, prima dell'anno, e una poi? Crisi verso l'anno e dopo un anno e mezzo si comincia a essere padroni del divieto di fumare. Allora commenteremo queste tappe suggerite da Giorgio Albertazzi insieme al dottor Boffi. Intanto io so che lei oggi, noi potremmo vederla in diretta TV da Gallipoli, perché riceve il premio Barocco. Barocco, sì. Ma grazie, io sono felice. Ecco, lei è il mio regalo di oggi. Intanto la ringrazio, grazie, la ringrazio davvero e complimenti. Posso? Un abbraccio. Grazie, un abbraccio. Anche Milly Moratti posso dirle una cosa? Ma quello che per voi sembra una gestualità eroica da compagno oppure amica, per noi invece che siamo al di fuori, è un modo scontato di vedervi, cioè io prevedere che mio marito stia per accendersi una sigaretta da una serie di piccoli atti impercettibili, lui che è invece sempre così sorprendente, me lo fa apparire un pochino più scontato, ecco, diminuisce la ritualità, il valore di una persona. Ma intanto Giorgio Albertazzi ormai è fuori, è un ex. Io devo dare la linea ai nostri mercati, al meteo, e poi torniamo insieme. Grazie a Giorgio Albertazzi per essere stato con noi, a tra poco. Buongiorno, grazie a voi. Daily Lab, i consigli della salute, in collaborazione con Uliveto ti fa digerire, Rocchetta ti depura. Uliveto e Rocchetta, acque della salute. Marta ha scelto Win Business per parlare dal telefonino senza limiti con tutti i suoi colleghi. Flavio lo ha scelto per raddoppiare i minuti e chiamare tutti i suoi clienti. Passa a Win Business entro il 17 luglio. Chiamate illimitate tra colleghi, 1200 minuti al mese per parlare con tutti. Internet, mail e uno smartphone nuovo a soli 35 euro al mese per un anno. Non sappiamo quale sarà il futuro della vostra impresa, ma saremo con voi mentre lo costruite. Condizioni e durata contrattuale su winbusiness.it. Passa a Win Business. Chiama il 156. La borsa di New York sale, riscende, le azioni bancarie precipitano, no, risalgono, si fermano, gli indici, mi indica gli indici, stazionari, sono medi insomma, e l'oro perde, no, avanza, si ferma, va, no, sì, ah! Quando tutto cambia in fretta il tuo stomaco va a fuoco, puoi spegnerlo. Contro il bruciore di stomaco puoi provare Buscopan antiacido, che con una sola compressa effervescente agisce rapidamente e a lungo. L'indice dell'acidità ha avuto un crollo. Buscopan antiacido, rapido contro il bruciore fino a 12 ore. È un medicinale a base di ranitidina, leggere attentamente il foglio illustrativo. SMAU informa. L'8 e il 9 giugno la School of Management del Politecnico di Milano e SDA Bocconi School of Management ti aspettano alla terza edizione di SMAU Business Bologna. Momenti formativi e di riflessione per comprendere come far crescere la tua impresa grazie alle moderne tecnologie e ai innovativi metodi di management. Tutti i dettagli su smau.it. Amarabacci Cicocco, ma che stai facendo? Non so che latte comprare. Io sì, compro solo latte con il marchio di garanzia Itala. Vedi questa simpatica mucca sulla confezione? È il bollino che mi garantisce che questo latte è controllato dalla mungitura alla tavola, come se avesse la carta d'identità. E poi è italiano al 100%, fresco, nutriente, sicuro. Allora, adesso sai che latte comprare. Ora sì. Scegli la qualità, scegli il marchio di garanzia Itala. Visita il sito italaweb.it. Il progetto Itala è realizzato da Latte Italia con il sostegno del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. C'era una volta l'energia, costosa, sprecata, ma necessaria. Poi arrivò Mr. Kilowatt. Mr. Kilowatt, il programma che ti aiuta a risparmiare e usare l'energia in modo consapevole ed ecosostenibile. Mr. Kilowatt, dal lunedì al venerdì alle 21 su Radio 24. In collaborazione con ABB, soluzioni e strumenti concreti per l'efficienza energetica. GDF Suez, scopri la nuova energia di un grande gruppo internazionale. Vi presenta Borse in diretta. Si mantiene negativo l'umore delle piazze del vecchio continente, qualche piazza migliora la sua giornata, ma fondamentalmente la tendenza è in rosso con Milano che guida i ribassi. Adesso Milano cede lo 0,75%, è arrivata a perdere quasi un punto e ancora una volta le vendite stanno colpendo indistintamente quasi tutti i titoli del settore bancario. Male anche Parigi, perde mezzo punto, mentre stanno ridimensionando la loro seduta negativa Londra, che perde adesso lo 0,08%, e Francoforte meno 0,12%. Ad agitare gli investitori ancora una volta i timori per la situazione greca, e c'è ancora lo strascico per il dato sulla disoccupazione americana diffuso venerdì scorso, che non ha convinto gli operatori. Questa situazione si riflette anche nel rapporto di cambio, l'euro continua ad essere piuttosto forte, sul dollaro quota adesso 1,46,32. Milano, vendite insistenti su Bibanca, meno 3,63%, oggi parte l'aumento di capitale da 1 miliardo, da quando il gruppo ha comunicato le condizioni di questa operazione straordinaria il mercato ha continuato a penalizzare il titolo. Azimut meno 2,58, Mediolanum meno 2,41, quindi oggi una giornata negativa anche per il risparmio gestito, mentre tra i titoli che non appartengono al settore finanziario troviamo tra i più negativi STM in calo di 2 punti percentuali, insieme ad Intesa meno 1,85, Buzzi Unice meno 1,60. Acquisti invece abbastanza consistenti su Campari e Prismian, i migliori titoli in questo momento con un rialzo di oltre 1,5 punti, più 1 punto per Pirelli, più 0,8% per Enel Green Power. È tutto con i mercati, ci risentiamo nel GR delle 12 a Salvadanaio. In legno si può, risponde Rubner. Ho sentito che si realizzano anche grandi edifici con struttura in legno, è vero? Quali sono i maggiori vantaggi rispetto all'edilizia tradizionale? Cosa succede a un edificio con struttura in legno in caso di sisma e incendio? Che vantaggi e opportunità offre la struttura in legno per l'ampliamento edilizio? Vai sul sito di Radio 24, entra nella sezione In legno si può, risponde Rubner, e mandaci la tua domanda. 12.000 euro su Citroen Jumper. 12.000 euro su Citroen Jumper. Devo segnarmelo, devo scrivermelo. Dove ho messo la penna? 12.000 euro! Nessuno ha mai fatto un'offerta così! Anche a giugno, Citroen ti offre su tutti i veicoli commerciali fino a 12.000 euro di supervalutazione del tuo usato, che vale zero. E in più, su Citroen Jumpy e Jumper, navigatore satellitare compreso nel prezzo. Vieni a scoprirli negli showroom Citroen. Ti bruciano gli occhi, sono rossi e irritati. I colliri omeopatici possono darti un pronto sollievo. La loro formula li rende adatti a tutti, anche per un uso frequente. Sempre più medici e farmacisti scelgono i medicinali omeopatici. I leader mondiali dell'omeopatia sono i Laboratoire Boiron, azienda familiare da oltre 80 anni con più di 4.000 persone nel mondo. Ti bruciano gli occhi? Prova l'omeopatia. Scegli anche tu Boiron. Mi sveglio nel mezzo della notte, sudata. Sento dei passi nel corridoio. Poi la porta scricchiola. Si apre lentamente. Ed entra mio marito. Era su internet a rinnovare la polizza auto. Cerchi un'assicurazione auto da paura? Passa anche tu a Genialloid. Via internet, telefono o email c'è sempre. E poi hai clienti più soddisfatti. Fai un preventivo. Chiama l'800-999-999 o clicca su genialloid.it. Genialloid, una società Allianz. Prima di sottoscrivere, leggere il fascicolo informativo su genialloid.it. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona giornata agli ascoltatori di Radio 24. Viveremo un inizio di settimana all'insegna dell'instabilità al centro-nord in Sardegna, con piogge domani anche di forte intensità. Tempo più soleggiato e caldo al sud, dove si supereranno tra oggi e mercoledì quasi ovunque i 30 gradi. Intanto oggi ancora instabile, con brevi rovesci e temporali al nord-est, zone interne del centro, con locali sconfinamenti lungo le coste adriatiche di Marche e Abruzzo, e in Sardegna, tendenza ad ampie schiarite invece nelle regioni di nord-ovest. Abbastanza soleggiato al sud, anche se non mancheranno un po' di nubi in transito. Le temperature sono previste in lieve rialzo al nord-ovest, in crescita anche al sud, dove già oggi si sfioreranno i 30 gradi. E con questo è tutto. Per maggiori dettagli consultare il sito meteo.it. State ascoltando un programma offerto da Natura, nutrizione scientifica. Essere e benessere. Intanto vi dico che Viviana da Roma ci ha scritto un messaggio che sta fumando l'ultima sigaretta insieme a noi. e ci scrive: se ci riesco vi benedico. Allora io invito Viviana a chiamarci all'800 24 00 24, ci faccia sentire la sua voce, perché il dottor Boffi si offre, no? Molto volentieri. Si offre di supportarla e di seguirla, via, naturalmente in due città diverse, sarà via mail, ma... Beh, noi abbiamo il dottor Boffi. Per smettere di fumare vale la pena anche farsi aiutare. Vero? Ecco, si può. E poi comunque a distanza. E comunque c'è sempre il nostro profilo Facebook insieme al dottor Boffi. Radio 24 a Essere Benessere ha inaugurato proprio il primo reality per smettere di fumare. Molti di voi mi stanno ancora scrivendo: grazie a voi ce l'ho fatta. Quindi il dottor Boffi, Giorgio Albertazzi aveva individuato dei momenti a rischio in cui si smette per l'entusiasmo, perché finalmente si prende la grande decisione, poi ci sono degli alti e dei bassi. Li avete individuati? Sono per tutti uguali? C'è un momento critico che avete evidenziato o ciascuno di noi ha una storia diversa? No, non sono per tutti uguali, però ci sono delle regole che valgono per la maggioranza delle persone. Mi sembra interessante che si è parlato di corde vocali e di fiato, no? Un attore, spesso gli attori o i cantanti smettono di fumare perché non riescono a fare bene il loro lavoro, che è poi la loro passione principale. E sottolineo il fatto che la capacità polmonare aumenta del 30% già dopo un mese quando si smette di fumare, quindi mi piace sottolineare l'aspetto della reversibilità dei danni del fumo in gran parte. E poi sempre a un mese migliora la pelle, i capelli diventano più luminosi, l'alito, l'odore in generale, quindi quello che dobbiamo cercare di scardinare in noi è la percezione che il fumo ci renda belli, ci renda fighi, ci renda più interessanti. Non è affatto così. Ed è una percezione che cercate di smontare. È una percezione anche comunque ragazzi, creata ad arte. Sì. Da chi ha interesse facci diventare fumatori. Dottoressa Moratti, insieme anche all'Istituto dei Tumori di Milano e al Ministero della Pubblica Istruzione, l'associazione di cui lei è presidente, Chiama Milano, si impegna anche per cercare di dire ai giovani: non fumate, no? Sembra un appello spesso che cade nel vuoto, perché i ragazzi iniziano a fumare sempre prima e sembra che i messaggi non arrivino, però c'è un impegno, cercate di coinvolgere in iniziative, in campagne informative, speriamo, no? Su quale aspetto fate leva? Ma prima di tutto bisogna entrare nel linguaggio dei ragazzi, quindi abbiamo fatto delle pubblicazioni che parlano il linguaggio dei ragazzi, quindi anche figurativamente il linguaggio dei ragazzi, e poi proprio coinvolgendoli direttamente abbiamo chiesto il loro aiuto per fare delle campagne pubblicitarie contro il fumo. Quindi... questo quindi di puntare sulla creatività, sì, una creatività. Sì, e non solo sul fumo, anche sull'alimentazione, sì, sull'ambiente, perché spesso le cose si embricano, spesso i giovani fumano per non ingrassare, ad esempio. Che non è vero. No, no, non è che la sigaretta, una pessima dieta. Ecco, non è che la sigaretta, diciamolo, perché molti ci credono, dato che se smetto ingrasso, se fumo non ingrasso, non è così. No, no, assolutamente, perché anche perché tra l'altro fumando si perdono un po' i sapori e quindi si va sempre alla ricerca dei cibi più saporiti, che sono spesso e volentieri anche quelli più calorici. Andiamo a Padova, c'è Mauro, 800 24 00 24, buongiorno Mauro. Mauro? Mauro non lo sentiamo. Possiamo andare a dare le informazioni sul traffico? Filippo Aureggi, regia la parte tecnica, che ringraziamo. Andiamo. Dai, che forse ce la si fa insieme. 800 24 00 24. A chi sta pensando di smettere, a chi ce l'ha fatta, a chi proprio non ci vuole neanche pensare perché dice: intanto ne fumo poco, noi siamo qua. Soprattutto possiamo contare anche sulla consulenza e sulla così comprensione del dottor Boffi, che ha visto tanti fumatori alle prese con l'ultima sigaretta e poi anche ricadere. Ma l'importante è smettere, poi se uno ricade non importa. No, assolutamente. No? Ah. Vogliamo dare il sito per sì, i ragazzi? Abbiamo inaugurato il 31 maggio di quest'anno un nuovo sito insieme al Ministero della Pubblica Istruzione, insieme all'Associazione Chiama Milano e al Liceo Classico Zucchi di Monza. Si chiama www.lascuoladellasalute.it, è rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie. di tutta Italia ed è un sito per diffondere la cultura della prevenzione dei tumori, non solo iniziando a fumare ma anche imparando a mangiare in maniera sana. E l'idea nostra è quella di formare alcuni ragazzi per essere dei modelli di riferimento per, certo, i loro coetanei. Esatto. E insegnare loro l'importanza e le regole della prevenzione, perché comunque anche la prevenzione è delle norme. Assolutamente, dobbiamo proprio investire sui ragazzi, dottoressa Moratti. Certo. Questo è perché... donne e ragazzi. Come dico io. Sì. No, anche gli uomini. Non a perdere, no, quelli, certo, che già, perché come ha detto il dottor Boffi, si guadagna sempre a qualunque età smettendo di fumare. Quindi. Però ecco, i ragazzi, capire il momento in cui comincia, se è una timidezza, un rito collettivo, un linguaggio del corpo, ecco, sono tutte cose da smentire, sfatare, far capire che è molto più interessante appunto un linguaggio del corpo come saper ballare bene, che sicuramente invece va in contrasto col fumo e anche con una cattiva alimentazione. Se state per smettere, se volete smettere, se l'avete fatto ma avete voglia di ricominciare, abbiamo la possibilità di darvi un kit, due libri, uno con un approccio più psico, che è quello di Allen Carr, l'altro con un approccio più medico, Spegnila, del dottor Boffi. Quindi uniamo proprio le forze, due approcci diversi per cercare di spegnerla. 800 24 00 24. Intanto vorrei dare la linea a Fabiano, che ci chiama da Milano. Buongiorno Fabiano. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Deborah. Seguo sempre la sua trasmissione. Anche se sono Nicoletta. Sì, anche se sono Nicoletta, uguale. No, se segue anche Deborah mi fa piacere, perché bene, è molto brava. Ci segua tutte e due, le donne del mattino. Vada. No, va bene, scusi. E niente, volevo, come ho detto alla ragazza, cioè sì, io ho provato a smettere per tanti anni, io ho iniziato a 15 anni, adesso ne ho 38. Sì. È un po' una lotta, è stata per mese, due mesi, ho provato in tutti i modi, ho letto libri, non sono mai riuscito definitivamente a smettere, ho smesso una settimana, due settimane, massimo. E poi però già in una settimana, due settimane il dottor Boffi, allora dottor Boffi, qua il libro, io a Fabiano ne darei due, così prova a vedere se può contare. Ma io ho un paziente che ha due bagni e le tiene tutte e due i libri, uno dei due bagni, e quindi fa un doppio martellamento, diciamo. Boffi e Carr, va bene, per carità, l'importante è riflettere, ecco, cioè quando fumi pensare a quello che stai facendo, perché molte sigarette vengono fumate in maniera automatica, senza riflettere neanche di averle accese. E a proposito di riflettere, noi sappiamo che quando inspiriamo una sigaretta, una boccata di fumo scende, no? Passa nel naso, scende nei polmoni, diciamo noi. Dottor sì, certo, Boffi, certo. Passa dalla gola, come abbiamo sentito, e poi va nei polmoni. E va giù, e va nei polmoni, e fa danni, eccetera. Però arriva anche nel cervello. E qualche cosa succede ai nostri neuroni. Buongiorno al dottor Cherubini, direttore della ricerca sperimentale. Pensate sui danni della nicotina sui neuroni della Sissa. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Dottore, lei con il suo gruppo di ricerca ha fatto uno studio su questi neuroni e sugli effetti della nicotina. Le cose sono molto complicate, ma lei è molto bravo e riesce a spiegarcele in modo semplice. Che cosa succede ai nostri neuroni? Allora, noi abbiamo trovato che in un particolare gruppo di neuroni, che sono dei neuroni inibitori, che sono presenti in una struttura del cervello che si chiama ippocampo, che abbiamo tutti noi, ne abbiamo due di ippocampi, questa struttura è molto importante per i processi di apprendimento e di memoria, questi neuroni sono capaci di sincronizzare una grande popolazione di neuroni e dare origine a delle oscillazioni, uguali a quelle che noi abbiamo proprio nel ritmo cardiaco. Questi neuroni hanno anche dei canali particolari che sono responsabili di questo ritmo, di questa pulsazione, come se queste cellule nel cervello pulsassero tutte quante insieme, ritmicamente. E questo, la nicotina, quello che fa, blocca direttamente questi canali, che sono esattamente gli stessi che si trovano nel cuore. Blocca questi canali, e bloccando questi canali produce appunto delle come fossero delle aritmie, sì, delle aritmie a livello del sistema nervoso centrale, quindi può alterare i processi proprio di apprendimento e di memoria, di attenzione. E quello che abbiamo visto è che la nicotina agisce a delle dosi estremamente basse, perché noi sappiamo che quando noi fumiamo per esempio due sigarette abbiamo una concentrazione del sangue di circa 50-60 nanomolari di nicotina. Questa concentrazione nel cervello può dare luogo, può bloccare questi canali e dare luogo a queste alterazioni. E quindi una buona ragione in più. Chissà se anche le particelle producono le stesse cose. Dottoressa Moratti, questo sarebbe da valutare. Se sì, comunque l'inquinamento cambia il ritmo, eh? Questo non si sa, ma magari è un altro corretto. L'inquinamento non dà dipendenza. Ecco, uno. Beh, intanto anzi, ringraziamo il dottor Cherubini che so che deve scappare. Intanto grazie e buona ricerca. Buongiorno, dottor Cherubini, grazie, è stato molto chiaro. Andiamo a Mohamed che ci chiama da Verona. Buongiorno. Buongiorno, pronto? Pronto, buongiorno. Eccomi qua. Niente, ho sentito la vostra trasmissione, sì, anch'io veramente da tanto che sto pensando di smettere di fumare, anche perché primo non ci ho guadagnato niente, secondo ci hanno rimesso solo salute. Ma questo dovrebbe essere uno slogan, non guadagni e ci perdi solo, e allora? Ecco. E niente, e poi con la nascita di mia figlia che è venuta a luce del sole ieri mattina, proprio un altro motivo in più, perché veramente da quando l'ho vista ho detto... Ma la sigaretta la butto qua. Bravo. Infatti, allora... infatti dopo che sono uscito dall'ospedale, c'avevo proprio il pacchetto lì, niente, non mi faceva voglia proprio, ci pensavo più a mia figlia che al pacchetto o alla sigaretta. Mohamed, auguri, e per rinforzare il suo buon proposito, per sostenerlo, dottor Boffi. Beh, il kit se lo merita. Assolutamente. Dottoressa perché... Moratti, a Mohamed, sì. Lo diamo sicuro. Certo, assolutamente. Ha sottolineato un aspetto importante, quello della comunicare la propria scelta a amici e parenti, e in questa maniera avere un incoraggiamento e anche chiedere loro naturalmente non fumare in nostra presenza. Perché il fumo passivo... Fa male e fa venire voglia di ricominciare a fumare, anche tra l'altro a chi ha smesso da poco. A me dà solo fastidio. No, certo, ma a chi ha appena smesso è comunque una tentazione. È una cosa stranissima che io sento molto la prima sigaretta del mattino quando prendiamo il caffè insieme con mio marito. Quella proprio mi disturba in una maniera perché probabilmente tu durante la giornata diventi un pochino fumatrice passiva. Al mattino ti sei ripulita e quindi la assorbi di più. Fa più male la prima sigaretta aspirata anche passivamente. Okay. Allora, Valeria ci chiama da Roma. Abbiamo proprio un minutino. Valeria, buongiorno. Buongiorno. Ma buongiorno. Lei è una ex. La sento dalla voce perché è bella, bella forte. È una ex? Io sono una ex fumatrice. Vedi. Io ho cominciato da adolescente e sono di quei giovani che hanno fatto grande formazione, che ha fatto smettere di fumare i genitori, ma che poi a 15 anni ha preso la sigaretta in bocca. E poi mi sono ritrovata a 24 anni dopo una bronchite asmatica sul balcone che accendevo l'ennesima sigaretta e mi sono sentita cretina. E ha detto basta. E ho detto con il mio compagno molto più grande di me, fumatore da parecchi anni, con cui era un piacere fumare, ci siamo guardati e abbiamo detto tu lo fai per me, io lo faccio per te. E abbiamo smesso. Io devo quasi chiudere, ma vedo che la dottoressa Moratti vuole intervenire. No, è molto importante l'ambiente che si ha intorno, sia appunto il sodalizio con la persona che hai proprio più vicino, ma anche l'ambiente di lavoro o in ogni caso scolastico, perché è l'ambiente che certe volte condiziona la prima sigaretta ed è l'ambiente che la può sostenere oppure la può rifiutare. Cioè dobbiamo cercare di agire accerchiando. Allora facciamo delle alleanze, sì. Accerchiamoci, essere benessere come sempre a vostra disposizione con il nostro profilo Facebook, il dottor Boffi ci dà una mano, dati sull'inquinamento ambientale poi li prenderemo, naturalmente ci faremo aggiornare dalla dottoressa Moratti. Io vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio i miei ospiti, ringrazio voi che siete intervenuti, abbiamo ancora due kit mi sembra da distribuire, le telefonate sono state tante, abbiamo avuto anche un problema tecnico, vi mettiamo sul sito. Grazie, grazie e provate a spegnerla. Buona giornata.